Carissimi amici di Runtime Radio, questa radio si sta trasformando nelle famose radio private della Resistenza. Noi chiusi in uno scantinato a 10 km di distanza l'uno dall'altro per rispettare quelle che sono le norme di questo governo fasullo e rettiliano che ci sta chiaramente tenendo tutti segregati e imprigionati dentro casa. Con me a Monterotondo Scalo, Walter Sbano. Governo Farzo. Ecco, esatto. E addirittura, e questa è la prima volta dopo anni, quasi 9 anni, che Marco Gualdi non è qui con noi in studio. Però c'è, Marco Gualdi. Paura, eh? Pensi che ti hai messi paura, a dire la verità. No, beh, sì, per un attimo. Perché se non chiudi i torrent, poi se crea il lag, allora è un casino. Ma i torrent sono chiusi, è YouPorn che è aperto, cioè, anzi Pornhub, perché c'è l'abbonamento gratis adesso per questo momento, quindi bisogna approfittare. Hai ragione. Walter, vedo un sacco di gente in chat, così. Ma li salutiamo tutti, subito, immediatamente, sempre in ordine sparso, inverso, come se fosse Antani. Salutiamo Lobby Frontali, salutiamo Lullaby, salutiamo Daniele Goretti, salutiamo Stefano, che probabilmente oggi è contento perché combacia la nostra diretta con il fatto che lui deve andare a lavorare, quindi ci ascolta in diretta mentre lavora. Gli facciamo pure passare un'oretta e mezza un po' più serena del normale, anche perché con tutti quelli che ovviamente in questi giorni se ne stanno a casa, essere quello che deve andare al lavoro secondo me è ancora più pesante. Non so voi come la vedete. Salutiamo anche tutti gli altri, comunque. Guarda, sono sicuro che ci raggiungeranno in tanti. Se non fosse un periodo di solidarietà, in altre circostanze avremmo detto lavoratori. Esatto. Però non lo facciamo, perché chiaramente è un momento di... Perché adesso sono i lavoratori che ci fanno a noi. Esatto, perché se abbiamo Inter che non c'è più un lavoro, insomma, quindi queste sono cose bellissime. E vabbè, niente ragazzi, questa è la seconda trasmissione, anzi la terza, di questa serie di live che abbiamo deciso di fare per due ragioni. Uno, perché siamo a casa, e due, perché Runtime vuole stare vicino ai propri amici. L'abbiamo detto, insomma, è una cosa che vogliamo fare. Vicino per a due palmi, eh? Sempre a un metro e mezzo dalle chiappe, però... Almeno. Questa è, per esempio, ieri sera abbiamo fatto una bellissima live. Oggi, questa mattina, Alex Raccugli ha fatto una puntata estemporanea di Summer Radio. Poi ci siamo noi adesso fino alle 19:30, dipende da che ora deve andare a Magna Gualdi. Che poi, tra l'altro, Gualdi ha cambiato nome, ragazzi. Non è più il distruggitore, ma è il portatore di morte. Quindi, poi dopo, se vuole, ci Il Deathbringer. Beh, è un adattamento, come dire, per stare al passo con i tempi, ma è un discorso più che altro, diciamo, di ammodernamento del modo di esprimere un concetto. Intanto salutiamo Girasole e salutiamo anche Michela De Paola, che sono anche loro persone che giustamente ci dicono: noi siamo quelli che vanno a lavorare. In bocca al lupo e grazie da parte di tutti. Ecco, sì, anche se non sappiamo che sia Girasole, però salutiamo. Non importa. No, ma io comunque penso che sia una persona che manda a casa la gente con gli autobus, con occhi a croce, così, che si sveglia e dice: tu vai a casa, e si manda a casa la gente. Ah, ok, quindi c'è quello che fa uscire, c'è quello che manda. Lei è quella che fa uscire la gente. Ok, va benissimo. Va bene, l'uomo quindi... che usciva la gente, o forse la donna che usciva la gente. La donna che usciva la gente, sì. No, Girasole, pure un bel... E poi tra l'altro, in un periodo... Se siamo dovuti inventare e fare la gente a casa e faccia sentire, esatto. Davvero, smette di lavorare, porco cane. Però è bastato mandare Gualdi in giro porta a porta per un paio di settimane. Infatti, ricordatevi che Gualdi è stato a Milano. Guarda, i tempi come coincidono. Gualdi è stato a Milano quanto? Un mesetto fa? Eccola, io non lo volevo ammettere pubblicamente. 29 e 30 di gennaio. Vedi? Sei un untore. Quindi anche tu. È il Deathbringer, appunto, l'ha detto anche lui. Portatore di morte. Però il Deathbringer, però veramente questa è la cosa neonata, quindi poi dopo magari ne parliamo. Però detto questo, invece, dicevo, Girasole è un bel nome, perché in questo periodo un po' di oscurità ci porta questa immagine così solare, luminosa, che bisognerebbe però capire se è Girasole o Girasole, che c'è anche quello in effetti. Che poi, tra l'altro, qui c'è un messaggio di solidarietà che ci sentiamo di fare, perché in questo momento Runtime Radio, senza voler offendere nessuno chiaramente, vuole esprimere solidarietà verso i testimoni di Geova. perché proprio in questo periodo in cui ci avrebbero trovato tutti a casa non ne apre proprio nessuno sta botta, quindi niente raga, non è roba per voi il mondo secondo me, poi fate un po' come vi pare. E salutiamo invece anche l'associazione delle mamme. Dov'è il vostro dio, direi? Prego? Dov'è il vostro dio, direi? In questo momento, ma anche in sei Vietnam. Tu un dio, chiedeva quello lì, il tizio, quello di, che era Ghostbusters, no? Ghostbusters. Dicevo, anche l'associazione delle mamme lombarde che insomma diceva, come facciamo noi a, perché noi ultimamente dicevamo, no? Oh regà, cazzo, sti vaccinisti hanno smesso di rompere i coglioni, no? Cioè nel senso, no, per carità, sono spariti, non hanno smesso di rompere i coglioni. Si sono andati a nascondere momentaneamente, però aspettando che passi il male, sì. Esatto, però l'associazione delle mamme lombarde hanno detto che se questa situazione serve per obbligare a fare i vaccini, loro resisteranno. E quindi vedete anche qui io sono sempre uno che dice che Darwin dovrebbe essere materia di studio e bisognerebbe metterla in pratica, insomma. Esatto, la selezione poi naturale resiste. In realtà si studia, il problema è che si resta sul teorico, è quello forse il vero problema. Per ora. Ma poi il problema è che fino a che vogliono muoiere loro, va bene, quando vogliono muoiere gli altri, insomma, è un po' più... potrei dire, no, che l'emblema di queste contraddizioni è stato oggi Beppe Grillo, che in una delle rare dichiarazioni di questi giorni, meno di lui si vede solo Berlusconi, fateci caso, e praticamente ha parlato di vaccini, ha detto che bisogna trovare il vaccino, e qualcuno giustamente gli ha fatto notare, ma come, allora se adesso hai questa, come dire, hai questa posizione, questo punto di vista, cominci a chiedere scusa per tutte le donne della scienza che hai offeso nel recente passato. Veramente ha avuto parole devastanti negli ultimi anni un po' per tutti, dalla ricercatrice che era dovuta scappare in America perché era stata accusata di una truffa che poi si rivelò assolutamente falsa, ma anche, se non ricordo male, se la prese con la Montalcini, insomma ebbe parole assolutamente drastiche per tutti. Adesso insomma suona un po' ipocrita questo suo atteggiamento, ma d'altra parte si sa che chi vive di comunicazione fa così e la gente magari neanche ci fa caso. Comunque Girasole ci tiene a farci sapere che niente sole, solo sole, che ovviamente, ma poi se ho capito chi è cioè nel senso si collega anche a un racconto domenica sera veramente da Io sono leggenda, era sabato sera, ok, sì, da Io sono leggenda, perché praticamente noi voi sapete che c'è stato un momento in cui zona rossa, zona grigia, zona marrone, e praticamente tanta c'era anche la bizona, a un certo punto c'era anche la bizona. Oddio, c'è avete presente quando siete concentrati e state parlando e sentite la mano di un fantasma che vi tocca e tra salite vi girate, invece è Michela. Volevo dire che fino a quel momento che stai per raccontare, tutti quanti avevamo ancora una vita sociale. Esatto. E Marco Gualdi poteva prendere la strada da casa verso casa nostra. È vero. Infatti sono penso che Michela mi cacciasse, mi denunciasse. Che non t'ha voluto, è vero. È una cosa... Ha fatto fare i posti di blocco sotto casa, dai vigili, penso. Ci dicono, da lobby frontali, ci dicono che possiamo fare nomi, va bene. Allora... Il discorso è che è un po' paradosso, perché ci sono determinate cose che sono successe tutte talmente tanto velocemente, Walter, che non ce ne siamo accorti. Quella sera, quel sabato, a casa nostra, eravamo 4-5 persone ed è stata l'ultima volta che abbiamo avuto dei rapporti sociali con qualcuno. Basta, poi è finita. E sarà l'ultima per molto, molto, molto tempo. Dai. Sì, no, Michela, guarda, scusami, Michela, l'ottimista sono, dovrei essere io. Mi sento, aspetta. Aspetta, no, perché scusate, non c'aveva le cuffie, non so in che maniera voleva interagire con voi. Che dicevi, Walter? No, dicevo che quell'ottimista della situazione dovrei essere io, tu così mi rubi il mestiere. Sì, ma infatti ci stai stupendo, perché è vero che siamo solo tipo al giorno zero, come... Ma perché secondo me le situazioni di crisi tirano fuori la verità in qualche modo. Ok. Cioè, scusate un attimo. Perché le situazioni di crisi Walter si sente bene. Ragazzi, scusate un attimo. Cos'è? Che Dance cazzo? No, c'era un passante, l'ho dovuto sistemare. Ok. Sì, perché in questo scenario di desertume ci sono i zombie, no? E a Walter sono rimasti tipo 15-16 cartucce, suppongo. Ah, ok. Sì. Dopodiché sì, ho detto l'ultima è per me, però insomma finché ne ho. Ma guarda, se ti affacci sono mio, quindi dal balcone alle volte sbaglio. Se ti affacci al balcone. Posso darvi delle informazioni. Davanti a casa mia c'è un negozio di Bangladesh dove ci sono tre persone a molto meno di un metro che stanno parlando tra di loro. Nel senso che vendono Bangladesh in questo interno. No, sono fuori. Uno porta la mascherina abbassata perché si deve bere la birra, quindi mi sembra legit. Se però se la passano la bottiglia, perché non è uno stronzo. Ragazzi, lui vuole condividere. Non si dica che in momenti di difficoltà io non sono stronzo e non passo la birra. Lo arresteranno, Marco, fidati, vedrai. Resta lì tutta la notte e aspetta. Ma hai costretto a restare a casa mettendomi paura dei vigili, delle forze dell'ordine, della Digos. Invece allora, c'è gente veramente tu hai dovuto superare due ostacoli. Il primo l'avevi quasi superato, il secondo non ci sei riuscito. No, assolutamente era impossibile. Io detto, hai alzato le mani. Ha detto io il portatore di morte, il portatore di morte e basta, cioè qui si ferma. No, c'è ragione, ragazzi, Francesco, diciamo... ma sì c'è ragione, la scena è stata bellissima, l'importante è dai muoviamoci, andiamo in stazione, ma prima mangiamo. Esatto, cioè noi dovevamo correre per salvare una persona, ma prima ci siamo mangiati la torta, è vero, vai, era Walter. Buonissima. No, guarda, è assolutamente sacrosanto, le priorità della vita, cioè, avrei fatto anch'io così, insomma, per una fetta di torta, forse più per uno spicchio di pizza, però va bene, l'avrei fatto anch'io, insomma. No, dicevo, cerchiamo un attimo di fare un ragionamento, lanciamo un appello a tutti gli amici, voi sapete, noi in radio, insomma, come dire, certo non ci possiamo definire amici delle guardie, ecco, mettiamola così per usare una metafora. Consiglio pratico, ragazzi, se uscite, se fate come Waldi che cerca di saltare l'ostacolo, come Snake, Solid Snake si camuffa con uno scatolone per arrivare a casa di Pizzi, qualora vi dovessero fermare, non fate incazzare le guardie, perché gli rode già un po', ma giustamente, di loro in questi giorni. Non fate poi che gli scatarrate addosso come ha fatto uno, mi pare, proprio a Roma poche ore fa, perché era stato fermato ed era stato multato e la cosa l'aveva irritato, perché in questo periodo sono inevitabilmente sotto stress e, diciamo così, basta poco a beccarsi una denuncia e tutto quello che ne consegue. Ma guarda, la denuncia è il minimo, voglio dire, perché comunque sì, in teoria la multa è già automaticamente una denuncia, sì, se tu violi. Il problema è magari anche le bastonate, perché sapete... che quando vengono, caso di dire che oggi basta uno sputo per beccarsi la multa, c'è, cioè, una cosa esatto, proprio... vabbè, in realtà in teoria se sputi a un poliziotto, cioè, no, non è la, allora non è, ragazzi, proprio... il meccanismo è questo, se il poliziotto, il carabiniere ti ferma e ti dice dove abiti, noi risponde a uno sputo. Ah, uno sputo, giusto, ok, perché sennò so problemi. Allora, vabbè, io comunque prima di andare a fare altre cose vi volevo dire, dato che sono diventata un'informatrice pro di come si gira in mezzo al perché oggi l'hanno fermata due volte praticamente. Come si gira in mezzo alla quarantena, cioè come si esce dalla quarantena. Ah, vi dico, innanzitutto non dovete uscire, questo abbiamo capito in tutte le sarze. Vabbè, io quello, insomma... O come dice Conte, state a casa e non rompete i coglioni. Prima ah, così dice? Proprio questo, l'hashtag Conte, state a casa e non rompete i coglioni. Lo sto rivalutando questo signore, devo dire che... E soprattutto, seriamente, allora, gli spostamenti sono consentiti per andare al lavoro e per tornare dal lavoro, per andare a fare la spesa... per andare in farmacia, e se dovete andare a casa di altre persone potete andare soltanto a casa di persone che dovete assistere, quindi familiari non autosufficienti o persone che comunque generalmente assistite, quindi potrete dimostrare. Allora, Gualdi sa perfettamente che io non sono autosufficiente, quindi lui mi deve assistere, perché quando vediamo Picard lui mi deve raccontare quello che succede a schermo, capito? No, ma poi anche quando ti supera il livello de... quello in particolare, che ieri, okay, ieri ho bestemmiato. Infatti sarà la lunga quarantena, sì, forse dobbiamo trovare, ma troveremo dei modi per condividere i desktop, gli schermi, qualche maniera faremo. Se esiste la tecnologia, usiamola. Comunque, anche perché a me un guardi mi levava un sacco di cazzi, perché soprattutto quando poi c'era tutta sta roba nerd, tutte queste cose nerd, loro se le guardavano tra di loro. Sì, mo so cazzi tua. Io mi isolavo nel mio mondo, invece è così. Diciamo che non c'è più nessuno a cui affidare. Il momento pizzi per vedere tutta la serie di Mr. Robot dall'inizio. Sì, assolutamente. Dato assolutamente che pure sì. Michela la vuole vedere. Comunque, attenzione perché i guariti hanno superato i morti. Attenzione. Ma credo che questa proporzione sia sempre stata così. Non abbiamo mai avuto più morti che guariti. Quindi attenzione. Guariti 1258 e morti 1016. Vabbè, che altro, i malati stanno entrando nella Serie A a gamba tesa, insomma. Juve, Sampdoria. Ma un po' in tutti gli sport, in realtà, anche in Formula 1. Vabbè, però nello sport è più facile, fanno gol, si abbracciano, si sputano, sudano, addosso. Vabbè, quell'idiota dell'NBA che per far parlo stupido si è messo a toccare tutti i microfoni dei giornalisti, adesso è positivo e praticamente hanno messo in quarantena tutta l'NBA. Tutta l'NBA, esatto. Vabbè, l'avrebbero messa in quarantena comunque. Perché... A prescindere. Ma io penso... Ma guarda che anche Diego Costa ha fatto una cosa abbastanza stupida. Ha fatto finta di tossire nella Mixed Zone quando praticamente il tratto che va, diciamo, dagli spogliatoi all'uscita dello stadio dove si incontrano i giornalisti, eccetera. Insomma, ha fatto una cosa abbastanza di cattivo gusto pure lui. Non stanno mancando questi esempi scellerati, ma d'altra parte, voglio dire, con tutto il rispetto per i calciatori, non sono esattamente tutti dei geni, ecco, ci sono anche quelli che hanno un'attenzione in più, sicuramente una sensibilità maggiore, ma ci sono pure quelli un po' gretti. Comunque, allora, intanto salutiamo pure l'Alabai. No, l'abbiamo già salutata, l'Alabai Puccio. Attenzione, bene. L'Alabai che dicevo, mi sto rivedendo tutto frigge. Fringe è la serie quella ambientata in Abruzzo. Ah sì, come no. Ma che dici? Fringe. Vabbè, sì, ragazzi, mica sono in Abruzzo, pure in Sicilia, neanche... Ma sì, vabbè ragazzi, io comunque vi saluto che nel frattempo tipo mi vado a lavare. Brava. E che se, schifo, guarda. Se ci siete schifo, anche dopo vero. Vi vengo a salutare dopo. C'è il virus addosso. Quanto ci avete intenzione? Allora, in teoria la trasmissione doveva durare fino alle 19:30, ma Gualdi ha protestato perché dice che alle 19 deve mangiare. Ma io mangiare, ma che sto scherzando? Vabbè, lui va a mangiare, ragazzi. Che lì sì che si frigge. Gualdi, c'è sempre posto a casa nostra, te puoi trasferire qua tranquillamente. C'è un letto, tra l'altro, che è il letto dove ha dormito Lobby Frontali. Devi solo con due gatti, mica con 10. Sì. Vabbè, ma lui c'è abbastanza abituato, tutto sommato. Sì. Vabbè, ciao Michela, ciao. Ciao ragazzi. Allora, i sabati sera, l'ultimo sabato sera, raccontiamo. Walter, com'è andato il tuo ultimo sabato sera? Il mio ultimo sabato sera, se lo dico, mi trovo, no la Digos, ma le unità speciali sotto casa, ma lo dico lo stesso, che mi frega. Sono andato all'inaugurazione della nuova lavanderia di un'amica. Eravamo in 30 in 5 metri quadri. Beh, devo dire che genio che ha inaugurato il giorno stesso in cui ha chiuso poi fondamentalmente. Cioè, beh, diciamo che ancora non c'era nessun blocco, insomma. Era nell'aereo. Vabbè, ma purtroppo però, diciamo, poi non sì, è che non esatto. È stata una cosa molto furba fare questa cosa, però cioè il fatalismo di soprattutto, vabbè, ero a Napoli, ma non per fare luogo comune, però diciamo che c'è stata una certa, come dire, consapevole momento di menefreghismo, nel senso che lo sapevamo che non si sarebbe dovuto fare, ecco, però lo abbiamo fatto consapevolmente, non è una giustificazione, però insomma è andata. Allora io voglio fare una rettifica a Puccio, guarda che agli ospedali non si mangia alle 19, ma si mangia alle 18:30, te lo dico perché sì. Sono esperto di ospedali, quindi anche Gualdi è esperto di ospedali. Anche perché alle 19 poi c'è l'ultimo turno di visite. Esatto, quindi hai già mangiato, devi essere bello in forze. Guardi, però quando vai in ospedale non lo fanno mangiare lui, non è che... Me lo ricordo, l'ultima volta le sue cronache dall'ospedale di Monterotondo, un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, ma te operano? No, ma te fanno mangiare? No, e che te fanno? E flebo? Aspettavano che morissi da solo, insomma, però Esatto, ci sono delle tecniche mediche che dicono che o guarisci da solo o muori, cioè nel senso, perché sprecare munizioni, come diceva qualcuno. O muore il verme o schiatta la creatura, diceva qualcuno. E invece noi il sabato sera eravamo tutti a casa nostra, eravamo io... Ma infatti ho rosicato, perché mi sarebbe piaciuto vedere Lobby, che ci siamo visti l'anno scorso, mi sembra, in prossimità delle feste, e poi non ci siamo più visti, insomma. Infatti, eravamo, vabbè, con Lobby, Gualdi, Girasole, suppongo che era lei, quindi... E stavamo, abbiamo fatto una bellissima cena vegana, tra l'altro, cioè lo so che qualcuno... però e alla fine era tutto buono perché ha preparato tutto l'hobby. Perché non c'è niente di male nel fatto che anche la cucina vegana no, perché essere se, buona la dai. Cosa è tu cucini cose di verdure, no? Nel senso senza usare uova, cose animali o roba del genere, e una cosa è alcun certo tipo di cucina vegana, no? Tipo quelli là che la carbonara vegana non si può vedere, no? Quelle cose no, un beh, po' quelle strane, sono cose okay. Un po' così, l'importante è friggere. Però esatto, le brutte sì, friggitelle. Tutto va bene, tutto. È tutto buono. Però ha cucinato l'hobby ed è una cena buonissima. Abbiamo mangiato tutto quanto. E la nostra amica, che tra l'altro ci sta anche molto simpatica, che significa da essere simpatica, perché a noi non ci sta simpatico nessuno, di solito. Ha portato poi sta torta di cacao, roba del genere. E mentre stavamo lì conversando dei cazzi nostri, io dico: vabbè, regà, Reggio Emilia è zona rossa. Bam. E quindi l'hobby ma prima guardato prima gli è uscito tipo l'occhio un attimo quello del laterale dall'orbita un po' strano, ha fatto un'espressione che mi ha messo un po' paura tipo esatto. No, andate non vi preoccupate, io sto okay, alla spara sì e poi dopo ha detto ma davvero e allora la nostra amica ci ha avuto un'idea, dice: vabbè, ma regà, ma se c'è il treno domani, ma domani lo fanno partire perché è zona rossa, prendiamo, uscimo, andiamo a Tiburtina, al primo Flixbus ce lo buttiamo dentro. Ed in effetti è stato così. C'è uno che andasse verso su. No, vabbè, l'ha prenotato. Però in realtà chi doveva rientrare poteva farlo, no? Allora, spesso ci arrivo a questa cosa, perché è interessante, molto interessante. Però prima di partire, giustamente dice, però sì, però prima mandiamosi la torta, c'è tempo, insomma, prima, perché era alle 11.30, se non mi sbaglio, quest'autobus che aveva prenotato. Erano le 10:15. Allora, facciamo in tempo, abbiamo fatto un tempo anche di più, perché poi in realtà siamo usciti per sabato sera a Roma, ragazzi, in giro non c'era nessuno, e neanche alla stazione c'era nessuno, quindi eravamo lì praticamente con poche persone che dovevano prendere questo bus che doveva andare a Reggio Emilia, e tra l'altro arrivavano tutti gli autobus e partivano tranne questo di Reggio Emilia, anche tipo 20 minuti dopo. Anche 20 minuti dopo è successo qualcosa di brutto, gli hanno dato fuoco. Esatto, perché voi sapete che Flixbus è importante questo, e se tu vai sull'applicazione e gli dici quale autobus stai aspettando, tramite GPS ti dice più o meno dove sta, e questo era sparito sto. Cioè, sapete quando tipo vabbè regà, c'è l'apocalisse zombie e anche l'ultima tua salvezza è stata assalita dai zombie, no? Perché alla fine questo noi abbiamo pensato. Fino a che a un certo punto quest'autobus è arrivato, così, siamo tutti esplosi nella gioia. Ma comunque poi alla fine non ci siamo resi conto che in tutto questo contesto, se non eravamo contaminati, sicuramente ci siamo infettati lì, quasi era lì, perché poi alla fine. Eppure ci siamo abbracciati a un metro di distanza, no? Con una esatto, tecnica. Abbiamo fatto come dei ombri cinesi, ci siamo proiettati l'abbraccio senza esatto, toccarci. Bravo. Comunque l'hobby ci ricorda il fantastico ragazzo inglese che lui ha risolto il problema, esatto. Che è riuscito a chiamare che è riuscito a chiamare Flixbus e a farsi spiegare che l'autobus sta arrivando, perché sì, perché ci stavano tutte queste ragazze che stavano lì e dicevano ma dobbiamo telefonare, ma dobbiamo fare, e nessuno faceva un cazzo. Lui si è messo là, capito? Ragazzi, non c'è niente da fare, è una questione di cultura, cioè, invece di chiacchierà quello ha ficcato, giustamente. E vabbè, bisogna essere pratici in certo nella vita. Anche l'autobus sta arrivando, si è capito bene, che il GPS 5 minuti, e infatti poi è arrivato. E c'è stato un boato, tipo, sembrava lo stadio. E questi scendono con tutte le mascherine, tutti bardati, vabbè, chiaramente, insomma, è entrata la Digos dentro l'autobus, non si sa perché. Però, e neanche l'hobby è riuscito a capire il perché. Però praticamente questo che dice... Ma la Digos davvero? Sì. Dire? No, sul serio. Poi dopo magari ce lo racconterà Francesco, insomma, in un'altra occasione. Però praticamente l'autista ha detto: noi fino a domani mattina possiamo circolare, domani mattina ci bloccheranno a tutti. Quindi, cioè, nel senso, lui già c'aveva le disposizioni che evidentemente noi non avevamo, no? Perché quindi cioè, loro dice: ma ci arriva fino a domattina questa Reggio Emilia? E mi sa che Francesco ci è arrivato tipo pelo praticamente, perché poi dopo da Reggio Emilia penso che l'abbiano proprio fermato l'autobus. E vabbè, questa è insomma la storia di un sabato sera alla rincorsa di un autobus, tipo veramente scenari da No Man's Sky, veramente interessante, tutto sommato, visto che noi non abbiamo mai avuto, no, queste esperienze, no? Questa sensazione, Walter, cioè tipo da coprifuoco, da, no? Un po' strano, no? Cioè, per noi, guarda, sì, generazione. Noi abbiamo, che ne so, in un certo senso mi viene da dire il privilegio di vivere qualcosa che tolti i film, probabilmente non si era mai vissuto, perlomeno non nelle modalità moderne. Chiaramente di epidemie ben più gravi e ben più massacranti la storia è piena, però diciamo parliamo veramente di condizioni molto diverse. Ma io oggi mi trovavo proprio a pensare a questa cosa e volevo lanciarvi questo tema, che è collaterale, però fino a un certo punto. Secondo voi, ora, posto che stiamo vivendo questa epidemia con tutta una serie di strumenti che ci danno accesso alle informazioni, ci danno degli svaghi anche se dobbiamo restare chiusi in casa tante ore e così via, ecco, la mia domanda è banalmente: ma se questa stessa epidemia ci fosse stata 10 o 20 anni fa, come la staremmo vivendo? Torniamo alla tecnologia che avevamo. Non ce ne siamo neanche accorti. Ma allora, io ho fatto due tipi di ragionamento. Il primo è che probabilmente se... allora, facciamo un discorso all'atere. Diciamo così, non partiamo da dove questa epidemia è nata e come si è diffusa, perché è chiaro che 20 anni fa probabilmente in Cina ci sarebbe nata e ci sarebbe morta, perché non c'era tutto questo circolazione di persone e di merci dalla Cina. Vabbè, verso era inferiore, immaginiamo che fosse successo comunque anche in un altro contesto, non importa da dove è partita, importa come la stiamo gestendo socialmente. Cosa sarebbe, cioè, come avremmo vissuto anche l'accesso ad informazioni più frammentario, l'accesso delle informazioni gestite solo ed esclusivamente da quei media mainstream che oggi si sono rivelati sensazionalisti, sciagalli per tanti motivi, no? Probabilmente saremmo già in piazza a dar fuoco ai copertoni, perché la paura, l'incertezza, la costrizione di dover stare chiusi in casa e non avere questi mezzi di intrattenimento che abbiamo oggi. Cosa avremmo fatto? Io sono curioso di sapere la vostra, anche degli amici in chat. Beh, certo che... Aspetta, c'è un collegamento, scusa. Ehi Google, vado a spasso. Ma dove cazzo vai, coglione, che se te pia il coronavirus stiri e zampette? Ecco, no, volevamo insomma questo collegamento importante. L'utilità dell'intelligenza artificiale, esatto. Allora... allora, la grossa differenza, tu hai detto 10 anni fa. Guarda, 10 anni fa. O 10 o 20, nel senso, prendiamo due scaglioni, perché ci sono grosse differenze. Ecco, facciamo un 20-25 anni fa. Però considera che io 20 anni fa già avevo internet. C'era già ICQ. No, forse 20 anni fa, magari sì. Forse sì, sì, cioè 20 anni fa, sì. Assolutamente sì, anche 25, però non era massificato. E non era che... così, esatto. Però, e quindi avremmo avuto sicuramente, allora, sicuramente saremmo stati più soli. No, oggi è più facile, perché oggi noi ci troviamo qui a fare una live stream tramite Skype, tramite un dispositivo che ci trasmette agli altri che ci stanno ascoltando e ai quali stiamo facendo compagnia. E questo è già un'enorme differenza, no? Che 25 anni fa non è che non poteva essere, ma era sicuramente molto più complicato e sicuramente molte meno persone accedevano a questo tipo di cose, no? Quindi ecco, come sarebbe stato? Sarebbe stato grazie che è successo adesso, cioè grazie al cazzo, anche perché insomma, come abbiamo detto, nessuno l'avrebbe voluto, nessuno se lo voleva augurare, però comunque se dobbiamo guardare il male minore... Insomma, non lo so, guardi 25 anni fa, cioè, eri connesso tu? 25 anni fa, assolutamente nel 95, diceva, assolutamente no. Tu sapevi neanche... Che facevi 25 anni fa? Chi se lo ricorda? No, dai, niente, probabilmente non facevo niente. Nel 95 facevo il militare. Quindi giocavi a Prince of Persia. A Prince of Persia, esatto, nello studio della contabilità. Rigorosamente da solo. Giusto. No, c'era un altro a più di un metro di distanza che faceva i cazzi suoi su un altro computer. Sì, ma nel senso single player, credo che volesse dire, sì, non esatto, da solo nella esatto. Stanza. Ah, beh, sì, certo, single player, ovvio. Cioè, Prince of Persia. C'era anche il multiplayer allora. Forse qualcosa c'era, ma tu giocavi proprio al Prince of Persia, quello originale. Prince quello... Si potevano originale. Fare i LAN party su Doom con le connessioni IPX e così via, insomma, nei locali. Si portavano i computer a casa dell'amico e si facevano tutti questi miscugli che, vabbè, per esempio non sarebbe stato possibile, non potevi andarci. Comunque Lercio ci avverte, una breaking news. Santa Sede, nei casi più gravi, sarà consentito bestemmiare nel gomito. Quindi... è bello saperlo, insomma. Come se bestemmia cosa. Nel gomito? Come quando tossisci, uguale. Ah, ho capito. È una misura che è stata disposta specificamente per i veneti, esatto. Immagino. Okay. Esatto. Dalla chiesa che comunque viene incontro a gente comune. Allora, 10 anni fa, secondo Puccio, l'avrebbe vissuta giocando a Ultima Online. È vero. Vent'anni fa. Aspetta, io cerco però di, come dire, di specificare meglio la mia domanda. Io non, diciamo, non vi sto domandando come avreste passato il tempo, lo stato d'animo, come, quale sarebbe stato secondo voi, perché oggi la tecnologia ci aiuta, come dire, in qualche modo a sdrammatizzare, a passare il tempo. 20 anni esatto. Fa, boh, cosa sarebbe successo? Allora, secondo me l'informazione sarebbe stata diversa 20 anni fa, quindi secondo me saremmo stati leggermente meno consapevoli fino a che non arrivavamo a dove chiude tutto. Secondo me ci sarebbe stata meno diffusione del virus 20 anni fa, 25 anni fa, cioè non sarebbe stato così rapido. Era un altro. Allora, se andava tipo, 56K? Andava, sì, esatto, andava 56 baud. E, non lo so, cioè, penso che era tutto molto più rallentato, no? Cioè, tutta questa globalizzazione così rapida, così veloce. Allora c'era o non c'era, no? Quindi, però, secondo voi, certe cazzate che sono state fatte palesemente per incoscienza, per paura, per caos generato proprio dai media, quindi ad esempio il fugone dalle zone rosse, si sarebbe verificato? Secondo me sì. Forse sì. Panico. Forse sì. È vero che, tipo, vabbè, sai che ti ho detto 25 anni, 20 anni fa ancora era una società molto simile a questa. Ciao Pier G, ben trovato. Ciao Pier G. Invece, che ne so, 35 anni fa, ad esempio, già gli spostamenti erano meno comodi, meno agevoli, cioè, allora io andavo su a Milano a lavorare da Reggio Calabria ed era veramente, quando partivo per tornare a Reggio Calabria partivo con bagagli, bagaglioni, ripartivo, portavo giù tutto perché magari stavo via una settimana e mezza e via dicendo. Era oggi Italo alle 6 del mattino che ti porta a Milano e la sera sei in un'altra volta a Roma, non c'era, no? Quindi c'è, cioè, nel senso, era tutto abbastanza diverso. È una domanda interessante. Sai, andavi in campagna, prendevi il tuo sacco e andavi in campagna. Ah, forse sì. Molte persone, infatti, chi può nelle regioni dove ci sono, hanno cercato rifugio nelle case di montagna, no? Sì, infatti sì. C'è il nostro amico sul gruppo. Dove se ti senti male muori, perché non getti il panico ovunque, giustamente. No, c'è un amico sul gruppo Riot di Alex che sta in Liguria e dice che, infatti, lui biastima contro tutti i lombardi che si sono rinchiusi dentro le case lì, ovviamente, che c'hanno per la villeggiatura estiva, sono tutte piene ste case, tutte gente che di solito non si vede mai e che giustamente dice, vabbè, siete venuti qua a portarci il virus, perché poi insomma è anche questo un po' l'atteggiamento, no? Un po' ancora sto retaggio, mi sei venuto a portare, mi sei venuto. Sì, là ci scopriamo privi di un'unità nazionale in questi momenti. Speriamo che dopo questa crisi ce ne sia venuta un po', mettiamola così, ecco. Sì, secondo me no. Diciamo che io ho una mia visione pseudo-ottimista. Cioè, io penso sempre che le crisi nessuno le vuole, però nel momento in cui passano lasciano un segno, inevitabilmente. Cioè, è chiaro che questa è una crisi diversa dal post-guerra, però è anche una crisi diversa dal periodo del terrorismo, quando a Roma di sera non si usciva. Ogni crisi è una crisi. La gente non vede l'ora di poter uscire e ritornare a mandarsi a fanculo. Cioè, proprio, secondo me non cambierà assolutamente nulla. Dopo questa crisi Salvini li metterà fuori da testa, ricomincerà a dire negri, maledetti, lasciamoli, aiutami a casa loro. Ecco, il concetto è proprio questo. Se non impariamo stravolta, è certificabile che non impariamo più. Io la vedo così. Quindi spero veramente, voglio essere ottimista, perché è una sorta di prova. Se non la superiamo, non ce ne sarà un'altra. Guarda, secondo me c'è un po' la sorta di effetto Matrix, no? Cioè, nel senso, Matrix che raccontava, no? Raccontava il fatto che le macchine a un certo punto hanno dovuto mettere le persone che erano coltivate in un mondo virtuale che era un mondo più simile al mondo reale, no? Quello, un mondo di disagio, perché in realtà le persone nel benessere tendono nel senso, cambia, no, l'umanità nel benessere rispetto all'umanità nel momento di difficoltà. E anche sì, fisiologico. Sì, diciamo, no? Che troppo benessere fa anche male in un certo senso. E anche fisiologico, cioè noi siamo un popolo che poi in particolare tende a dimenticare, no? Però nei momenti post-crisi tendiamo a ricostruire, diciamo, no? Cioè è come se da noi ogni 30 anni ci deve essere comunque una situazione che ci ricordi che comunque siamo una comunità, no? In qualche maniera. E io lo vedo da tutta una serie di iniziative che comunque sono state messe sul territorio, dal nord al sud, anche di sostegno, di supporto gratis, anche per le persone in difficoltà. Cioè, comunque c'è, no, una reazione in qualche maniera. Il problema è fra quanto ce lo dimenticheremo. Non il fatto che quando finisce la gente torna in strada e rimandasse a fanculo. Fra quanto ce lo dimenticheremo. Forse è questo un po' più il problema, secondo me. Poco tempo. Dipende da quanto terrore avremo negli occhi prima che passi, ecco, secondo me. Vabbè, ma guardi, allora lo diciamo perché sei il portatore di morte. Ma sì, diciamo. Il portatore di morte. Tanto faccio presente, ieri ho preso un caffè con lui, quindi... Perché se avete dovuto venire a casa di Pizzi a fare la... Quindi sfidare il morbo, sfidare le raccomandazioni di restare chiusi dentro casa... E quello l'avrei fatto, soltanto che poi ci sono i miei, soprattutto mia madre, che si caga sotto. Dove vai? Porti la morte, la distruzione, rientra, ci ammaliamo tutti, siamo morti. Quindi ho preferito evitare, insomma, ulteriore paranoia. Prima che tu facessi la cosa e che era già successo. Sonno, praticamente. Sì, cosa del genere. Mi avrebbero chiuso in camera e darò fuoco. Esatto, quindi sì, insomma, poteva essere fastidioso, diciamo. Sì, certo. Vabbè, io ho un altro contributo importante dalla regia che insomma vorrei condividere con voi, che... Ping pong, banchetti dalla caposala, ping pong. Buongiorno, desidero. Che mi fa vedere le mutande? Come? Dai, fammi vedere le mutande. Ma cosa dice? E quando vai? No, non era questo il contributo. Vabbè, però ci è piaciuto, non so, l'estemporanea ci è piaciuto. Ma poi gliela ha fatto vedere le mutande. Non lo so, mentre cerchi il contributo giusto, leggevo un messaggio di Lobby che dice, anzi di Lobster, che dice: te lo dovevi far dire ad Alessandro, comunque c'è una signora di Reggio che conosciamo che è in vacanza in un posto di mare all'estero, che un paio di settimane fa lo chiamò allarmata perché in albergo erano arrivati dei bergamaschi. Non che sono razzista, però sti lombardi era meglio se se ne stavano a casa. Ragazzi, ma è giusto, comunque c'è il contributo, eh. Vado? Vadi. Farmaci Arbor. Stazione Arbor. I tempi comici. Pronto? Ciampino? Sì. Mettete al culo. Ecco. Ci tenevamo tantissimo a questa cosa perché è un po' così, cioè nel senso, oggi Marco che fai, vieni, pietà del culo e state a casa. Vabbè, è così, insomma ragazzi, questa è un po' la situazione che ci raccontiamo, però alla fine, appunto, vabbè, al di là delle riflessioni, secondo voi, Walter, che tu adesso sei un po' più fortunato, tra virgolette, no? Nella disgrazia, diciamo così, perché comunque sei più abituato a concepire anche il discorso dello smart working, del lavoro da casa o roba del genere, no? Come ti stai trovando? Cioè, al di là dei clienti che disdicono e via dicendo, cioè, tu eri preparato? Guarda, io ti dico, a me non piace lo smart working. In passato in azienda abbiamo più volte provato a ragionare anche sull'idea di dire: chi ce lo fa fare di avere una sede? Lavoriamo ognuno da casa. Ma in realtà, diciamo, il nostro lavoro e le tecnologie che abbiamo lo permetterebbero. Però secondo me la mancanza di contatto fisico con le persone, la mancanza di confronto, la mancanza di essere alcune ore al giorno nello stesso posto e soprattutto di uscire dall'ambiente domestico per alcune ore è una mancanza che io personalmente vivo malissimo. Ci sono persone che quando lavorano da casa finiscono per essere più produttive di quando vengono in ufficio. Ci sono persone come me, io me lo riconosco, lo ammetto senza problemi, che a casa sono produttivo la metà. Prima di tutto perché diciamo, mi faccio distrarre da piccole grandi distrazioni che magari più rigidamente in ufficio faccio finta di evitare, nel senso in ufficio non mi metto mezz'ora a guardare YouTube in orario di lavoro mentre sto facendo una cosa, a casa la complice l'ambiente più, come dire, più familiare e più domestico lo faccio, ma così insomma tante altre cose. Però devo dire che a parte questa mia personale non attitudine, i primi 2 o 3 giorni sono tutto sommato tranquilli. Abbiamo dovuto fare un mezzo trasloco perché ognuno di noi si è portato a casa più o meno tutto quello che aveva in ufficio di utile. Io ho iniziato col portatile, dopo un giorno e mezzo la cervicale e l'artrosi al collo hanno cominciato a farsi vive, e quindi ieri fortunatamente ho fatto ancora in tempo, ed è lì che poi ho preso un caffè con Gualdi, sono risalito in ufficio, mi sono portato via il monitor, la tastiera, l'occasione, il mixer, certo, vabbè, pazienza, il mixer e tutto quanto, così ho detto, ecco, io adesso ho una postazione allestita completamente, se devo stare qui un paio di settimane ci sto, ciccio. Beh, che è l'ultima volta che hai visto Gualdi. Chissà se è l'ultima volta che lo vedrai poi, tra l'altro. Chi può dirlo? Eh sì. Buonasera a everybody da Enrico Fonso. Buonasera a te, Enrico. Salutiamo. Stavo cercando un altro contributo, molto più pregnante, diciamo anche più aderente, ma è difficile trovarlo, perché cercavo le regole di ingaggio di Rick in The Walking Dead, no? Cioè, nel senso, quando coloro conoscevano una persona nuova, prima di farla entrare nel gruppo gli facevano il test, no? Quello esatto, però non riesco a trovarlo perché era figo quello. E degli umani li ha uccisi, quanti ne ha uccisi? E vabbè, niente ragazzi, non ho capito bene come funzionasse, però diciamo... no, ragazzi, io volevo in questo momento, scusatemi, di, come dire, di sensibilizzazione, di campagne a favore delle varie strutture, visto che c'è Runtime per il sociale, io vorrei iniziare una campagna sociale che regaliamo un microfono a Gualdi, facciamo questa campagna Patreon anche. Ma in realtà solo... il microfono ce l'abbiamo da darglielo a Gualdi, il problema è come darglielo adesso, insomma, questo è un po', però insomma troveremo un modo. Troveremo un modo, sicuramente tramite le linee segrete, la quinta colonna del nostro movimento di resistenza. Dove... Ma è possibile che non c'è la posta pneumatica? No. Però pneumatica... Ma poi scusate, noi abbiamo l'agent provocateur che è Michela, che va in giro ovviamente per le strade di Monterotondo apposta per fare dell'azione, no? Per beccare... Guarda, Michela è appena entrata, però si sta mettendo le cuffie, ripeti. Carichiamo sulla macchina di Michela questo microfono e poi lei lo sgancerà a... Il nostro ostacolo è sempre, il nostro ostacolo è sempre la madre dei Gualdi. No, ma non devi salire. Ma non devi salire. Citofoni, lo lasci sul portone, sull'uscio, quello del piano terra, no? Neanche quello. Guarda, io sono abbastanza convinto che in questo periodo, se tu citofoni e lasci un oggetto fuori al portone, non se lo... sono sicuro che non se lo frega nessuno. Non se lo ruba nessuno. Vabbè. Salutiamo anche Davide Gatti, che ci è venuto a trovare. Oggi la mia azienda ha organizzato un SV tutto suo. Che cosa significa uno smart working tutto suo, cioè nel senso che adesso ce lo deve raccontare, insomma. Io avrei pensato uno Star Wars tutto suo, però... Ma io mi chiedo una cosa, no? Io mi chiedo una cosa molto semplice, ma molto semplice. Sì, ma chieditela però, perché... Ma tutti sti cazzo di smart working, ma che cazzo era la vedova di lavorare che non c'è sta, che hanno fermato tutto, hanno fermato i cantieri, hanno fermato le pubblicità, hanno fermato la vita. Che vedova di lavorare? Schifo, vergogna. No, sono curiosa. I servizi pubblici, i servizi digitali e anche, come dire, la produzione, quindi il comparto produttivo, non sono fermi. Si spera di non fermarli, perché è chiaro che se fermi le fabbriche, la ripercussione, a parte che economica, poi diventa anche pratica. Fra un mese o 2 mesi non ci saranno i prodotti, no? Vabbè, ecco, oggi c'è stata... moriremo di fame. Ci sono state un po' di rivolte in fabbrica, perché comunque non si sentono molto protetti. Sì, io per carità lo capisco. Io questa cosa la dico consapevole del fatto che il diretto interessato non ci ascolta, però io sono, diciamo, in contatto con amici con i quali chiacchieriamo, di un nostro ulteriore amico che di professione ha una tabaccheria. E fondamentalmente sta facendo il diavolo a 4, soprattutto su Facebook, in vari gruppi tematici, perché lui non concepisce questo fatto che è obbligato a rimanere aperto. La stessa cosa è mia, lo stesso problema mio. Sì, ma tu sei obbligata a rimanere certo, aperta? Eh sì, perché certo, con l'RC obbligatoria. Io vendo un servizio primario che è quello dell'assicurazione assimilato alle banche e alle poste. No, poi soprattutto con l'RCA obbligatoria. Cioè, poi le polizze vita in questo momento immagino che vadano per la maggiore. No, chi le tocca? No, ma gente non caccia. No, le accendono. Ma dice, che... ho visto, nonna c'è il raffreddore, la faccio firmare. No, con la no, delega, insomma. Che non si sa mai. Ma il problema è che fare una polizza adesso non avrebbe senso, cioè perché saresti escluso da qualsiasi automaticamente, no? Da qualsiasi certo, sì, ci sono i cavilli che partono tutti in automatico, ma giustamente, insomma. No, non si azzardano neanche a pagarle, quindi figurati se si azzardano a farle. Sto stronzo ha schivato, aspetta un attimo, li mortacci sua. Dice il nostro amico Enrico, dice però vedo in giro le macchine rosse. Ho ammazzato quello di Just Eat. Ah bravo, ah no, quello di Just Eat ma no, ci serviva. Ci serviva a noi. No, just qua, quello che fa. Mangiava e basta, c'è cioè Just Eat. Cioè lui, ah Just Eat, ok. Comunque dicevo Enrico dice... Non credo che l'orario sia libero. Però un po' d'ordine, un secondo, perché sennò... No, ci chiedono se sappiamo che l'orario è libero oppure no, ma io non credo che l'orario sia libero, almeno fino alle 18 forse devono aprire. L'orario della morte. Allora, no, allora per i servizi, girasole, per i servizi devi di un certo tipo, cioè... no. Nel senso, le tabaccherie, le edicole, eccetera, siccome sono regolamentate ed hanno anche una serie di, come dire, di concessioni statali che sono regolate, come anche le farmacie, non possono aprire e chiudere quando vogliono. Devono comunque sottostare ad una serie di regole, perché ce ne deve essere sempre una aperta in un certo raggio e così via. Vale per tutti i servizi primari e quelli di monopolio, insomma. Allora, per le agenzie come quelle di vostra non lo so, però insomma facciamo no, un discorso noi siamo generale. Stati anarchici, cioè abbiamo detto ok, va bene, dobbiamo aprire. Allora, e intanto ai clienti che sono più smart, che ce la fanno, gli diciamo fate il bonifico, pure quelli che non ce la fanno fate aiutare da tuo figlio, fate aiutare da tuo nipote. E vabbè, fatti allora, aiutare da tuo nonno. Allora, fammi venire in casa, fatti aspettare e fai. No, oppure vabbè, quelli che proprio non ci sono riusciti, gli ho detto guarda, statevene a casa, tanto ci avete 15 giorni, mo troveremo un modo. Allora, per rispondere a Girasole, cioè le agenzie di assicurazioni sono equiparate alle banche, solo che a differenza delle banche, le agenzie di assicurazioni hanno una deroga sulle ferie d'agosto, cioè sulle ferie, cioè nel senso che hanno l'opportunità, la possibilità, tramite una combinazione anche di agenzia di sostituzione o roba del genere, di poter chiudere in un periodo dell'anno per le ferie. E questa è una deroga che hanno soltanto le agenzie, non hanno le banche. Le banche, questo per esempio, non lo possono fare nel modo più assoluto, no? Però, al di là di questo, sì, noi possiamo decidere quando fare le nostre ferie, però appunto è una deroga, perché altrimenti non... Diciamo avremmo... che resta aperto in questo momento è abbastanza spaventoso. Io mi sento di dirlo proprio con il cuore in mano, quindi sono vicina a tutte le persone che si fermano. Cioè i miei clienti che mi dicono mica chiudi. Ma in teoria Girasole sì, dovresti chiudere. Cioè nel senso, devono chiudere tutte le attività non essenziali. A meno che tu non vendi qualcosa da... No, lei vende roba da mangiare, anche se è un cavillo. Però effettivamente vende roba da mangiare. Ah, ok. Cioè, tipo... Ragazzi, scusate. Questo cavillo legale, tecnico. Okay. Angolino morti di bestemmie, tweet di Maria Elena Boschi. Ancora qualche idea per questo periodo? Visto che stiamo tutti a casa, approfittiamone per rifare le strade, a cominciare dal tappare le buche di Roma. Nel decreto diamo ai sindaci poteri di pronto intervento sulle strade. Cittadini contenti, aziende al lavoro, strade sicure. Grande priorità per la Boschi. Un applauso. Bravo. Chi è che le dovrebbe fare però? Vabbè, no. Ragazzi, qua sembra quasi che la Boschi, cioè che Virginia Raggi si sia impossessata della Boschi. Il livello è quello, il livello di comunicazione, però vabbè, facciamo. E poi tra l'altro la Boschi scusate, la Raggi con l'uscita sul nero. Detto... Sì. Ma guardate che io, cioè, ha suscitato tante polemiche, ma io per la prima volta nella mia vita mi sono trovata a dire, però c'è ragione, nel senso che... Ma in effetti sì, perché è stata una reazione umana, non è stata una reazione... Nel senso di, che, piacere, è vero che, cioè, ha sudato che il nero sì, è sì, qualcosa però loro di assolutamente sbagliato. Nero, cioè, mettono il reddito di cittadinanza che alla fine incentiva il nero. Il nero è qualcosa di assolutamente sbagliato, perché è assolutamente sbagliato e tutti i datori del lavoro via che assumono delle persone in nero si devono vergognare. Meglio zona rossa! e anche un po' le persone che magari cercano di fregare lo Stato in quel senso, in questo marasma, cioè tra quelli che si devono vergognare e quelli che cercano di fregare lo Stato, ci stanno tanti ragazzi, tante persone che comunque non ci hanno scelta, e in questo senso spero che comunque lei l'abbia voluta interpretare così, oppure io l'ho descritta troppo intelligente, quindi per questo mi scuso. Lì questi qua non verranno tutelati mai, cioè ragazzi come mio figlio o amici di mio figlio che lavorano, perché lavorano, ma lavorano in nero, quindi non sta a lavorare, no, non sta a lavorare. Lavorano, diciamo, adesso Michela, non lavorano. Il nero non ti dà tutele, diciamo, per definizione, cioè guadagni fin tanto che lavori, diciamo, non serve il coronavirus per avere dei problemi derivanti dal fatto di lavorare in nero, basta che il datore di lavoro ti dà un calcio nel culo. Ciao, oggi non mi serve, certo. Più, ciao. Esatto, cioè purtroppo in la gravità è, diciamo, amplificata dal fatto che molti lavoratori in nero avranno una ripercussione drammatica, ecco, è il numero, certo, che farà la crisi in questo caso. Assolutamente. Vabbè, ma anche sti cazzi, ci pensiamo. No? Possiamo dire a volte un po'. Ci pensiamo, comunque avete visto i numeri? Io l'ho visti, è meglio numeri? Che non li guardate della protezione civile. Saliranno ancora per almeno una settimana, 10 giorni, eh? Sì. Non illudiamoci che non salgono. Comunque la Groenlandia se la sta sfangando come al solito, ortacci d'oro. E anche la Russia, ma la Russia sappiamo che c'è il problema fondamentale che è l'informazione. No, è che loro sono immuni, no? Sono immuni a tutto, non muoiono. Sono immuni alla libertà di stampa. Sì, vabbè, alla però, libertà, vabbè, di stampa, come la Turchia in pratica. Ma, quindi, ma di chi parlate, scusate? Della Russia. Ah, beh, la Russia stanno per far approvare un emendamento che consentirà a Putin di rimanere presidente tipo fino al 2034, ma sono dettagliucci. Ecco. La prima volta che sono andata a Russia era il 2003 e già c'era Putin, quindi figuriamoci. Però lì era, lì ancora non era presidente, faceva cioè, era quello che adesso è Medved, mi pare, cioè poi vabbè, mo non Pavel so bene Medved. Come funziona. Sì, Nedvedev, vabbè, comunque non so bene l'ordinamento. Però una cosa, ragazzi, dobbiamo dirla: l'inquinamento ne ha giovato. Capito. E me coglioni al cazzo. Cioè, non, nel senso che non ci vengano a dire che non c'è l'aria pulita adesso. Beh, oddio, guarda, io pulita pulita no, però. Devo dire, io ci sono andato a fare la pulita spesa. Pulita dell'altro ieri, sì. Sono andato a fare la spesa e ci sono andato a piedi. Io, diciamo, percorro a piedi un tratto di circa 700-800 metri di via Salaria da casa mia al Superstore Conad. E lì la Salaria, che comunque è un'arteria trafficata, era una giornata normale, le macchine passavano come al solito. Ma è il Superstore Conad, cioè, il Store Conad. Che cos'è? Comunque il Store Conad è brutto. Superstore. Superstore. Capito? Perché io ho sentito il Superstore Conad. Non ho scandito bene. Scusate, non ho studiato dizione, devo ammetterlo. Insomma. Oggi c'era una bella fila in quei Conad. Giù non lo so, ma su sì. C'era una bella fila. La mia collega che è andata a fare anche lei la spesa, ma così stiamo parlando proprio di casa Monterotondo, al PAM. Lei dice non ha fatto molta fila, ma di fronte al Conad c'era la ressa. Vai a sapere, ci sono le preferenze, non lo so. No, vedi, Enrico mi dà ragione, perché dice che ha letto che l'inquinamento è diminuito, e diremo, insomma, quello che, insomma, mi è stato detto testa, grazie al cazzo, anche un pochetto, perché poi alla fine comunque se ne stiamo abbastanza a casa. Il fatto che oggi c'erano le file, lo sapete, è comunque il postumo del decreto immediato, no? Cioè, di solito la spesa la devi andare a fare dopo un giorno o due giorni, insomma. Altrimenti no, Amazon, ieri, per esempio, diciamo che Amazon, ragazzi, ha aumentato i prezzi. Amazon ha aumentato i prezzi e poi ha levato Prime dal sistema di solidarietà digitale, cioè siete dei pezzetti. Prime Video. No, vabbè, ragazzi, allora il sistema di solidarietà digitale, a parte che non ha mai funzionato, tutti quanti sono stati un po' costretti a togliere i servizi, perché una cosa è cercare di dare gratis a un bacino di utenti potenziale, come dire, calmierato dei servizi, ma immaginati che dessero a tutta l'Italia, in quanto tutta zona rossa, Amazon Prime, ma piuttosto che Netflix, piuttosto che qualunque altra cosa, completamente gratis. Già oggi l'infrastruttura di connettività non regge, ma pensa che succede se 50 milioni di italiani si buttano tutti insieme su Netflix. Secondo me io non voglia che certe persone scoprano Pornhub, se no è la fine. Ma Pornhub ha messo tutti. Gratis per tutti. Però, una cosa importante. Scusate, posso fare un ragionamento, però in questo caso, cioè, secondo me comunque il problema è che Netflix e tutte queste persone, cioè tutte queste realtà che si sono subito sbilanciate, dice, gratis per le zone rosse, roba del genere, cioè avrebbero dovuto considerarlo che questo, che ci sarebbe stato un aumento, un allargamento, no? Allora, se questo poi dopo diventava un pericolo anche per loro, cioè nel senso pure economicamente un grosso problema, avrebbero dovuto, diciamo, ponderare la cosa già dall'inizio, no? Che sbandierate le cose e poi il giorno dopo dice no vabbè, frega un cazzo. Simone, sono aziende che di partenza sono americane e in America la situazione è che ancora stanno facendo in buona parte negazionismo sul problema, quindi voglio dire è difficile. Fino a oggi è proprio difficile. Vabbè, io volevo dire una cosa, ma mi marito non capito, però parlare. Ho capito, però stavo a fare io il ragionamento. Insomma, cioè, no, cazzo, Vabbè, vai. Come volete, non menate, non menate. No, però cioè nel senso io cercavo di dire una cosa, che due settimane sono lunghe, da tre minuti, vai comunque, dai. No, volevo dire che Pornhub oggi ha messo la piattaforma streaming gratuita in tutta Italia, perché così passeremo tutti il tempo in quarantena meglio, e soprattutto ha deciso di donare tutto il ricavato delle prossime due settimane all'Italia comunque, e penso agli ospedali italiani. E allo stesso tempo Radio Maria, in questo momento così critico, ha messo l'Iban su Facebook per i bonifici straordinari per aiutare loro a essere più vicini alle persone momento. No, Radio Maria, ragazzi, è che loro richiedono la delega sul patrimonio, sull'eredità delle persone, cioè voi vi rendete conto, cioè nel senso che loro richiedono alle persone, quindi ai vecchi poverini che magari stanno da soli, di devolvergli l'eredità, ma stava scherzando, cioè, ma questa è un'associazione a delinquere, altro che Gesù Cristo. Questa cosa l'ha fatta notare su Facebook Jacopo Melio, che non ci ascolterà, però lo saluteremo lo stesso. Salutiamo, perché è grande, non so chi sia, quindi. È un ragazzo paralitico che ha porta avanti questa grande sfida, questa grande sfida di riuscire a far prendere il treno a tutte le persone invalide in Italia, e ormai è da tanto tempo che segue questo progetto Io Prendo il Treno, quindi magari un giorno riusciremo a parlarne, insomma, di questo progetto che è molto bello. No, che stava dicendo invece, no, questo infatti è, allora, poi tra l'altro è stato, l'avete visto Saverio Tommasi? Cioè pure Saverio Tommasi, tra l'altro, comunque un minimo, no? Io lo seguo tantissimo, mi piace, cioè io condivido sempre al 100%, è proprio come se parlassi io quasi, insomma, alla fine. E alla fine anche qui, cioè il discorso di solidarietà globale, cioè noi ci aspettiamo a un certo punto un momento di solidarietà da parte del resto del mondo, quando noi siamo stati i primi, no, che abbiamo messo alla berlina persone a lasciarle morire in mare, insomma, questa è una cosa che anche questo un po' minimo ci dovrà far riflettere un po', spero. E continuerò a farlo tra un paio di mesi. Io sono convinto che ricominceremo a essere le merde che siamo, però insomma, ragazzi, sì. Io sempre l'angolino morti di bestemmie, perché girando su Twitter ogni tanto becco delle perle e ve le giro in tempo reale. Dice tale Stefania Lichino: comunque l'Italia ha due isole enormi e non le sfrutta al meglio. Per evitare di continuare il contagio del Covid-19 basterebbe mandare in quarantena tutti i contaminati in Sardegna e Sicilia, così da poter passare la quarantena davanti a una spiaggia e un drink fresco, e liberare il nord Italia, dove la gente lavora e non vive a spese dell'INPS e dei contribuenti italiani. Okay, si chiama deportazione, chi è sta pazza? Comunque, allora, tale Stefania Lichino, la cosa bella è che nei primi tempi quegli stronzi proprio le vere merde si sono abbastanza azzittati, no? Però poi ogni tanto riemergono, perché sai, allora io suggerisco a Conte, hai segregato la gente dentro Pizzi, casa, scusa, no? leva Twitter alle persone, cioè. La merda, mi fai notare, riemerge prima o poi, va a galla, galleggia, è certo, galleggia. Eh sì, perché queste erano pratiche che si facevano, insomma, nel 1500 a Venezia, li buttavano tutti dentro l'isola dei lebbrosi e morite ammazzati. Scusate, io vi devo dire una cosa che poi vi saluto. Lo so una che breaking non... news, un breaking no, news. Una breaking news che non è una breaking news, ma è una condanna a morte per te. Ipergem rendono disponibili online oltre 400 concerti, quindi regà, cioè... Adesso la quarantena per me ci avrà un senso. Che vuol dire rendono? Che infatti, vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire? Cioè, te guardi 400 volte lo stesso concerto. Allora, aspettate che ve leggo l'articolo. Perché ecco, intanto ecco, ecco mi hanno linkato questa cosa. Io sono andata tipo in visibilio, insomma. Chiaro, allora, dopo l'annullamento delle date per Gem, occorrono ripari per i propri fan di Seattle. Primo focolaio negli Stati Uniti di coronavirus. E di tutto il mondo rendono disponibile online oltre 400 concerti su Nax.net da ascoltare o vedere on demand. Ma quelli di Seattle, cioè sono le registrazioni dei loro concerti precedenti, sì. Di questo parliamo. Ci sono praticamente 400 volte la stessa canzone, praticamente. Al prezzo scontato di 0,99 euro per 3 mesi. Prima costava 12,99 euro. Ma sozzoni, quali soldi volete? Sozzoni, Iper Gem, tutti bravi. Io mi guardo tutti. Che poi forse non hai capito che questo è un provvedimento fatto per quelli che ci hanno avuto i concerti annullati. Non credo che sia per tutti. No, loro hanno annullato i concerti. No, l'hanno fatto per tutti. C'è scritto qua. C'è scritto che l'hanno reso disponibile. L'hanno reso per i fan di Seattle. E di tutto il mondo, rendendo disponibile online oltre 400 concerti da ascoltare su Nax.net da vedere on demand. Ma che ci sia la specifica per i fan di Seattle, vabbè, comunque. Ma perché mi devi rompere tutti i sogni, tutte le cose belle? Ma cioè, stai sempre a sentire per Gem, che sogno? Ma che te frega? Ma che te frega? Qual è la novità che c'è in questa cosa che tu vedi? Vabbè, comunque. Va bene, a me piace tantissimo per Gem. No, assolutamente no. Ciò non toglie che hanno lesionato i coglioni, sì, assolutamente. A me non me li romperanno mai i coglioni, perché tu ce l'ho, quindi sto a posto. Vabbè, dai ragazzi, io direi che abbiamo fatto compagnia, no? Perché poi Gualdi deve andare a mangiare. Ah, quindi mandiamo Gualdi a cena. Io lo terrei al microfono per principio fino a quando non bussa la porticina della stanzetta la mamma e gli dice: è pronta la minestrina? No, che minestrina? Come minimo la minestra è fritta. Prima di certo, la minestra fritta. Stasera c'è vellutata di patate porri fritta. Ovviamente. Ah, noi abbiamo mangiato la vellutata oggi a pranzo. Bravo, spara, uccidi. Vabbè, ragazzi, io invece volevo parlare di questa cosa, visto che una delle cose che magari spesso per la vita un po' più frenetica non facciamo, in queste settimane abbiamo la possibilità di metterci a cucinare qualcosa di un po' più sfizioso, io già sto fantasticando di fare i pancake domenica mattina, per esempio, no? Allora, volevo dire, ma quale potrebbe essere qualche, magari nelle dirette delle prossime giornate, se come penso ne faremo altre, magari qualcuno ci può dare qualche consiglio, però ecco, cosa potremmo preparare di manicaretto per rompere la monotonia e per, come dire, compensare con un po' di cibo la noia? Io, per esempio, stasera mi faccio il kebab come se andassi dal kebabaro. Ho comprato il kebab già a pezzi, quello del supermercato, l'ho riscato. Dove l'hai preso? L'ho comprato il Conad, però è confezionato, non è fatto espresso. Oh, ma ci avete fatto caso che nei supermercati è pieno di sushi? Da Ocean in varie catene, al Conad per esempio no, pure al Conad, perlomeno dove vado io no. Conad quello no la PAM la PAM forse sì, però sinceramente rispetto a quello che lo paghi, io sono d'accordo se il sushi costa caro in un ristorante dedicato e già mi sembra un pochino una speculazione, ma quando una vaschetta di sushi costa 15, 20, sì, 30 euro al supermercato non ha senso. Chi te se incula anche. È sempre riso bollito, parliamo se chiaro, con 20 grammi di pesce sopra, però vabbè. E niente, insomma, così. Che allora noi domenica mattina facciamo la colazione all'American Way, quindi bacon, uova, salsiccetta, così, una cosa leggera. Sì, beh. Io proverò a fare i pancake è inutile chiedere a Coso, a Gualdi, se che cosa si cucina, perché... L'Alabai mangia bistecchina di vitello e carciofi, buona cena. Ah, buono. Invece sentiamo anche se c'è ancora Girasole cosa mangia. Sicuramente Lobby invece stava raccontando che sta cucinando a nastro per i suoi coinquilini in questi giorni. come lavorare. Ma infatti io, guarda, c'è per un attimo il fatto che lui non avesse potuto tornare, che fosse rimasto qua, per un attimo ci ho creduto, guarda, perché da paura, si mette lì, cucina, prepara, fa, tutto buono poi, quindi... Ma con Mercedes dietro con la cucchiarella che fa la guardia? No, Mercedes... Assaggia. Mercedes gli hai messo uno che cucina, basta, è finito, cioè per lei... ha vinto. Se avesse potuto lo avrebbe contrattualizzato, diciamo. Bastava una palla al piede, insomma, oppure bastava dichiarare che uno di voi aveva il Covid e quindi vi dovevano isolare tutti. Oggi rifà il couscous, ecco, per buono, esempio col couscous dei lobby sono andati avanti quasi 2 giorni in pratica, quindi... Beh, quello a mappa, fa mappazza, è buonissimo. Vabbè, perché comunque in un periodo di crisi bisogna, come te posso dire, ottimizzare i viveri, no? Cioè, nel senso, meno spreco. Sì. E vabbè, dai. Quindi... Guarda, diccelo a sto punto che mangi stasera, dai, dici tutto il menù. Te l'ho detto, la passata, la vellutata di porri e cinghiali, no, più di porro e patate. Come fai la vellutata di cinghiale? Non lo so. Togliendo i peli? Cioè, togli i peli, le zanne e poi lo frulli. Hai sentito come ha detto le zanne? Con la zeta morbida, veramente sei un signore, guardi. Ma soltanto soltanto la vellutatina, neanche la vellutatina, nemmeno con i crostini di pane, niente. Cioè, no, me la succhio con la cannuccia. No, perché mo adesso adesso McDonald's non dà più le cannucce, no? Perché? Perché è ecologico, è anti-ecologico, no? Poi dopo l'ultima volta invece mi hanno dato una cannuccia tipo di cartone, raga, che in bocca è un fastidio, cioè l'ho buttata subito proprio. Immagino, sì. Proprio il ruvidù. D'altra parte, il mondo del monouso deve per forza di cose cambiare di corsa, devono trovare soluzioni diverse dalla plastica. Non la metti, cioè, bevo direttamente dal coso. Nel caso della cannuccia, sì, il discorso è che devono cambiare anche i bicchieri, tutti i contenitori, tutto quello che oggi è di plastica. Perché se tu fai il tappo come quello dei caffè, no, cioè, nel senso, bevi in quel modo lì, cioè, nel senso... Quello tipo beccuccio, dici? Sì, esatto, quello con la... Però quello è di plastica, a quel punto è molta più plastica quella che una cannuccia. Quello c'è. Ah no, mi sa che hanno levato pure quello, ha ragione. Scusa, è vero. Te dico lì con le mano. Stasera fagioli alla texana, lo so, io domani sera li faccio i fagioli. I fagioletti alla zozzona, alla Bud Spencer, come li chiamo io, col tonno, con lo sgombro, col pomodoro, non so se lo fate mai. No, qui, allora, Enrico dice, lui stasera fagioli alla texana e slip in ghisa, che non so cosa... È mutande di ghisa, perché sennò se lo inculano. Per l'effetto, beh, voi sapete, io sono il maestro della faciolata, quindi insomma io la facevo. È vero, è tanto che non la facciamo, che non la facciamo. È vero, ma adesso la facciamo e poi la condividiamo. Cioè, una sera facciamo una cena Skype così. Ragazzi, poi in realtà cominciamo a preparare i mega eventi per quando questo calvario sarà finito, perché ti pare che non facciamo una mega festa? Che cavolo. Io penso che, allora, sapete che, allora, gli svedesi hanno questa tradizione che quando c'è il primo giorno d'estate, poi in realtà la cosa dura tutta l'estate, però quando c'è il primo giorno d'estate scovano. No, praticamente loro esplodono e vanno mezzi nudi tutti al parco a buttarsi per terra sul prato. Esplodono, mi sembrava più le... Sì, ma esplodono in tutti i sensi. La conseguenza è la fagiolata di Enrico. Ma no, è in tutti i sensi. Cioè, penso che è proprio un modo proprio di gioire per l'estate. Gioiscono in tanti modi, insomma. E quindi noi dovremmo fare una cosa... I popoli nordici non reprimono. No, reprimono durante i mesi... Non reprimono. No, sono molto più aperti a quel punto di vista. Però lo stanno durante l'inverno tutti compressi, no? Un pochetto... No, e poi quando arriva l'estate azzinate fuori, in pratica, per capire. Faremo una festa del genere tutti a palle de fuori e via. Mamma mia, che brutta scena. Stavo leggendo, controlli coronavirus, 7 arresti e 43 denunce. Bello, è giusto, raga. D'altronde stavano in Cina, c'era la filiazione, per cui tutto sommato è andata pure bene, sì, esatto. Vabbè. Però ragazzi, io vorrei estendere 7 cittadini stranieri di età compresa dai 36 ai 69 anni, però sono stranieri, non capisco. Ah, sono tutti in Bangla quelli sotto casa tua, allora, che se stanno seduti su delle panche intorno a un tavolino intenti a giocare a carte. Vinculiamo tutti, noi sti carabinieri sono avvicinati, qualcuno ha tentato di allontanarsi disperdendosi tra i passanti, solo che c'è stato un passante ogni 5 metri, per cui era difficile era tosta, sì, esatto. E quindi... comunque ragazzi, io volevo, come dire, spezzare una lancia da un momento di solidarietà a quel povero ragazzo che è stato fermato perché si stava andando a comprare la PlayStation in un altro comune. Bravo. Dai ragazzi, poverino, cioè questo di fronte alla prospettiva di 15 giorni di fracassamento di coglioni ha detto vabbè, non voglio fare danni, mi chiudo dentro. Ma esiste Amazon, ragazzi, esiste Amazon, cioè guarda, a parte che non conterei sul fatto che Amazon in questi giorni consegni tutto e puntualmente, perché no, stanno puntualmente, in un sovraccarico enorme. Puntualmente magari no, però a me per esempio fino a stamattina, fino a ieri mattina mi hanno consegnato. E poi, posso dire un po' di solidarietà pure per quelli che fanno i padroncini, ma perché già scoppia piano nelle condizioni normali, ma li dobbiamo far morire per strada rantolando e non per il coronavirus, ma per lo stress di fare 50.000 consegne al giorno. Io non vorrei essere mai nel ruolo del padroncino di Amazon in questi giorni. Ma tanto comunque ci sono molte persone che prenderanno il loro posto. Attenzione, interrompo dal Cimbali perché Michele è tornato. Oddio no. Salve. Andrà a vedere i concerti di Emergenza. Buonasera. No, volevo raccontare questo aneddoto. Questo aneddoto divertente su un mio cliente, perché insomma, ragazzo, cioè l'età mia. Allora viene a prendere la polizza, dico certo, c'ha comunque la famiglia che c'ha la polpa funebre, c'ha le pompe funebri, quindi ho detto c'ha certo. La polpa funebre. La polpa. C'ha le pompe funebri. E io ho detto, okay, certo che questo è un bel periodo per voi, è stato a lavorare tanto, pure un po' difficile. No, bello, ma veramente io ho litigato con mio padre e adesso faccio il corriere Amazon. Io sono spottata a ridere in faccia e ho detto, beh, ma sì, che sei scemo? Sì, anche perché con le pompe funebri, cioè, vuol dire, è il lavoro più redditizio della storia dell'umanità. E hai detto Berco. Quantomeno hai sempre clienti. Esatto. Bravo Berco. Senco. Comunque intanto ecco, c'è, cioè, Io sono leggenda, io sono Gusella che ci sta facendo il quadro della situazione. Ma dove stai? Dove? Gusella, che mette neanche perché ad agosto Gusella, sta... in piena notte c'è tutta questa desolazione. Benvenuto nel mondo, Gusella. Welcome to the world, fatturare. Lui cosa sta a fare fuori? Arrestiamo, mandagli i vigili, Michela. Sarà sicuramente con Biagio. Biagio Antonacci. C'avrà la scusa, c'avrà... Ah, Biagio. Fa mandare i vigili, Michela. Guarda, chiamali, non so subito. Io che chiamo i vigili. Tu c'hai il numero memorizzato. Sono i vigili che mi beccano a me. Poi, per fortuna, non sono i vigili che la chiamano. Signora, guarda, senti, un po' questi. Ma che hai visto qualcuno? La prima volta li ho tipo abbordati io. Ovviamente a debita distanza, perché noi non si potevamo avvicinare. Però, scusi, devo chiedere. La seconda volta, ma noi sta in giro. Vabbè, quindi ho detto, sto andando a casa. Io lavoro. E quindi va bene. Dai. E poi no. Lì ti hanno arrestato. Direi proprio di no. Forse non hanno mai lavorato così tanto in vita loro, insomma. Quindi era pure Campino, ora. Mette dal culo. Ecco, a posto. Ecco, via, di scioltezza, però. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao. Pure che sei vigile, sì. Vabbè. Ragazzi, io direi che dai, ci possiamo stare. Come volete, tanto... Allora, facciamo così. Di tanto in tanto, così estemporaneamente, nei pomeriggi o nelle sere in cui sono liberi, insomma, dai live, noi ogni tanto... Tanto... Soprattutto quando non abbiamo impegni, perché sai... No, ragazzi, esatto, allora, fatemelo sapere con anticipo, perché io, per esempio, domani mi devo andare a fare l'aperitivo in cucina. Esatto, bravo. Hai visto quella la tizia che stava lì che si truccava il video, no? La tizia che disse, ma dove vai? Vado a far giro in cucina. Sì, ne stanno girando tantissimi così, di quello che si veste, comunque, si profuma e va a farsi un caffè. Volevo solo dire questa cosa, non so se succederà, ma teoricamente domani mattina hanno messo il cartello che avrebbero dovuto staccare la corrente tipo dalle 8 alle 13 di mattina per lavori, l'Enel. Io dico, ma proprio adesso? Non mi sembra il momento opportuno, esatto. da prima, insomma, evidentemente. Ho capito, però, cioè, e poi bisogna capire se è un lavoro differibile o no, perché se è una cosa... Allora, il problema drammatico è che se quello che deve staccare la corrente c'è, bene, il problema è se non ci stanno quelli che devono fare i lavori, capito? Ah, ma sicuramente ci staranno, perché sono tutti vanno io insieme. Non credo che queste attività siano sospese, quelle diciamo di manutenzione delle infrastrutture, no, non le capito, puoi, proprio in questo momento non le puoi sospendere. No, infatti, certo. Centinaio di famiglie dentro casa senza corrente, capisci che è tosta. Poi diventa pesante. Ho capito, però ora io non so se lo fanno per riparare un guasto, però presumibilmente, auspicabilmente sì. Allora è meglio stare 2 ore per una manutenzione senza corrente, che poi sono cartelli forfettari, di solito il down di corrente è sempre 10-15 minuti, non è mai 6 ore. Dipende. D'altra sei parte ore, se no, però, poi si rischia dipende, non un so mai quando cominciano. È peggio. Boh, io mi sa che domani mattina vado a pulire casa, così. Lì c'ho corrente. Lì puoi andarci perché non c'è nessuno, sì. Però non di a tua madre se c'è incontri qualcuno. Assolutamente, mi porto la PlayStation così, attacco lì col televisore. Ma via. Secondo me trasferiscite, no? Cioè, almeno stasera, che ne so, almeno ci venimo noi da te. Ma non c'è internet, quindi non posso andare. Che schifo, che schifo. Mamma mia, che casa inutile che c'hai. Va niente, bene, c'è l'ultimo messaggio. Allora, secondo me anche. Ah no, però aspetta, faccio riferimento a qualcos'altro. Resterete senza corrente e giocate a scacchi. Bisogna a parte saper giocare a scacchi, allora, che non è il mio caso, ma serve anche come poi come sale. Sei antica, però. No, sei antica, dai, no, così no. A scacchi no. Scacchi troppo naturalezza, troppe cose. È barocco, dillo, è barocco. Sì, è troppo barocco, dai, troppo tradizionale, troppo legno, troppa natura. Guardi, comincia a star nudi, capito? Ragazzi, l'Alaba ci saluta dicendo che fondamentalmente va a cena e di far sapere al pubblico quando ci saranno le prossime dirette. Ma il vice fa segreto, lo devi scoprire da sola, devi essere sempre sul pezzo. Noi non ve lo diciamo prima. Esatto, sul pezzo. Potrebbe essere anche fra 5 minuti la prossima. Dopo cena. Sì. Allora, dopo cena c'è Alex, ecco, no? Proprio questo, esatto. Quindi ricordatevi che dopo alle 21 c'è Alex Raccuglia con MDB Summer Radio, che si intitola State a casa a Barcam. Deve essere una cosa fantastica. E io invece volevo salutare Marco Gualdi. Poi facci sapere com'è sta vellutata de bue. Buona vellutata. Buona. Tutto, cioè, tutto è un velluto intorno, insomma. Che vuol dire Girasole che dice ma io sono natura? Perché c'è tutta un'ambiguità in queste frasi che in questo momento fanno ancora più scalpore. Che ci vuole lei dire? Lei è natura, lei è verde, lei è molto. Sì, sì, no, è vero, è molto natura. Però, i scacchi fanno tristezza, dai, bisogna un pochino, dai. Gli scacchi no, dai. Vecchi. Esatto. Computer, bisogna giocare al computer, facciamo questo. Vabbè, io saluto Gualdi che se va a mangiare la vellutata, invece Sbano che stasera si fa un bel kebab. Mm-hmm. Bello, buono. E io invece che mi faccio una bella pizza gigante di Bofrost, quindi sono contento. Buono. E sono indeciso se lasciarvi con Futures Day dei Pearl Jam, che fa contenta Michela, oppure Sleep When I Dead. Guarda, metti una delle 400 versioni della stessa canzone dei Pearl Jam, dai, esatto. Che bellissimo. No, Sleep When I Dead dei Cure, che forse metto questa, che mi piace un po' di più, che è più a tema, insomma, con la questione. Quindi vi saluto e vi ringrazio. Questa sera alle 21 vi ricordo, insomma, che ci sta Alex Raccuglia, e noi torniamo presto, tra domani, dopodomani, mo vediamo, ci organizziamo. Tanto, come abbiamo detto, vogliamo farvi compagnia, ma soprattutto non ci abbiamo un cazzo da fare. Ciao Alex. Sì. Ciao Walter. Ciao. Buona serata. Ciao Marco. Ciao. A presto. Ciao. Yeah. thing before you lay me down to choose.